La violenza sessuale, l'istituzionalizzazione del trauma è il nostro retaggio di dolore. L'espressione ferita d'amore ci riporta al punto di partenza, alla metafora androcratica dell'amore erotico, una divinità maschile armata di arco e frecce. Perché sia in Sahara Asia, sia nell'antica Grecia o nell'antica Roma e ai tempi nostri, una visione del mondo sul modello della dominanza richiede che nelle questioni amorose sia il maschio a colpire in una cronica guerra dei sessi in cui gli uomini sono i vincitori dichiarati. Pertanto, l'immagine peculiare a prima vista dell'amore erotico nelle vesti di un giovane armato, a noi trasmessa dalla società dell'antica Grecia, rigidamente dominata dal maschio, è perfettamente consona a una simile organizzazione sociale. E siccome in questo tipo di organizzazione sociale non si prevede che gli uomini provino dolore, ma piuttosto lo infliggano, come si sente nei canti d'amore delle donne beduine, nonché in tutto un filone degli attuali canti popolari femminili, le relazioni romantiche sono in realtà, e non soltanto nella poesia, particolarmente dolorose per le donne di queste società. Ovviamente queste relazioni sono dolorose anche per gli uomini, perché né le donne né gli uomini possono trovare l'appagamento in un sistema sociale che non perde occasione per ostacolare i legami amorosi fra i sessi. Tuttavia, come dimostra drammaticamente l'opera di Abu Lu Ghod, proprio questo si richiede onde mantenere l'equivalenza mascolinità, predominio e controllo. Vorrei sottolineare ancora una volta che tali modi di pensare e di agire non appartengono solo alle popolazioni della Sahara Asia, ma, non dimenticando quanto stiamo apprendendo sul deserto sahara-asiatico, probabilmente è uno degli insediamenti preistorici delle orde, che come i Kurg più a nord portano un modo di vita androcratico o della dominanza, nelle zone più fertili che invasero. Non sembra accidentale il fatto che un rigido predominio maschile, lo stato di guerra cronico e i regimi dispotici siano ancora tanto tipici di questa regione. Ne fu probabilmente una semplice coincidenza se furono delle popolazioni di questa area, i mercanti di schiavi arabi, a svolgere un ruolo tanto importante nel trasporto di schiavi africani di entrambi i sessi in America. E neppure è un caso se, nonostante i coraggiosi sforzi di molti arabi progressisti, uomini e donne, l'effettivo asservimento della metà femminile della popolazione mediante istituzioni quale la purdah, una specie di arresti domiciliari, insieme con i delitti d'onore, di cui sono vittime donne considerate sessualmente libere, permangono tenacemente in talune zone di questa regione desertica. Infatti, tutto sta a indicare l'eredità di una rigidissima organizzazione sociale della dominanza in queste aride regioni del nostro pianeta. Forse non riusciremo mai a riunire perfettamente i pezzi che formano il puzzle delle origini del modello della dominanza, ma quantomeno cominciamo a metterne insieme alcuni e ad avvicinarci dunque un poco alla comprensione delle circostanze che in origine portano a una socializzazione maschile che effettivamente prescrive una corazza emotiva, ovvero la soppressione negli uomini di sentimenti diversi dalla collera, il disprezzo e simili emozioni forti o mascoline. E a una struttura sociale in cui le donne, assieme alle emozioni dolci e femminili, quali la cura e la compassione, sono escluse dal governo sociale. Infatti, le informazioni di cui ora disponiamo indicano che il complesso di condizioni che nella nostra preistoria e forse anche nella protostoria portarono a una forma di organizzazione sociale e sessuale sul modello della dominanza era una combinazione di fattori tecnologici, sociali e psicologici in cui le condizioni ambientali svolsero un ruolo di primo piano. Dico forse addirittura nella protostoria, perché come abbiamo visto nel capitolo 2, le organizzazioni sociali orientate prevalentemente sul modello della partnership o su quello della dominanza già si prefigurano nei nostri cugini primati contemporanei, come andiamo oggi apprendendo. E dico complesso di condizioni perché non ci stiamo occupando di una semplice questione di determinismo biologico, psicologico, tecnologico, addirittura ambientale. Si tratta piuttosto dell'interazione di tutti questi fattori in un processo dinamico dell'evoluzione culturale, nel quale, come nell'evoluzione biologica, sono operanti considerazioni di adattamento o sopravvivenza e un elemento di casualità o accidentalità, così come un certo grado di scelta. Così, forse non sapremo mai come si originarono alcune delle crudeli usanze dei Kurg, come l'uccisione di mogli, concubine e figli per accompagnare nella morte un uomo forte. Ma all'epoca in cui arrivarono nella vecchia Europa, violenza e predominio erano evidentemente diventati normali per loro e tali divennero anche in Europa e in altre regioni del mondo antico sulla scia delle varie ondate di incursione delle popolazioni pastoralistiche. Per riassumere in breve quanto verosimilmente accadde, le società preistoriche che si svilupparono nelle zone più fertili del pianeta, dove la natura poteva essere considerata una madre che dava la vita e la nutriva, e l'agricoltura poteva gradualmente sostituire la raccolta caccia, probabilmente in origine si orientarono prevalentemente verso il modello della partnership. In queste zone fiorì poi il culto del principio creativo femminile e si svilupparono miti e riti di allineamento con i poteri creativi della natura, quali la ierogamia, o sacra unione sessuale. Ovviamente il lato distruttivo della natura, come le periodiche tempeste, i terremoti, la siccità e le inondazioni, così come la malattia e gli incidenti alla morte, deve avere per certo preoccupato le popolazioni di queste regioni. Ma queste forze distruttive potevano essere spiegate più come parte di un misterioso insieme ciclico e quindi considerate come interconnesse, che come forze avversarie in un universo essenzialmente ostile. Per contro, nelle zone meno ospitali e più marginali del pianeta, i poteri che governavano l'universo dovevano essere considerati di gran lunga più aspri. Per la verità, a causa degli stenti e delle sofferenze senza tregua da sopportare, spesso devono essere stati considerati poteri punitivi. Di conseguenza, i rituali tendevano a diventare non tanto riti per un allineamento con le forze benefiche della natura, quanto per placare e in qualche modo controllare le forze della natura inaffidabili, apparentemente irate e distruttive. E qui, specie in periodi di grave carestia, le gerarchie basate sulla paura e sulla forza avevano maggiore probabilità di evolversi. Come De Meo sottolinea, in questi ambienti inospitali, specie in periodi di grave siccità e quindi di pesanti traumi di malnutrizione, la competizione accanita e il governo con la forza bruta avevano maggiori probabilità di svilupparsi. Una volta sviluppatisi, quantomeno in alcuni gruppi, evidentemente questi modelli di comportamento si istituzionalizzarono in modelli culturali. Per esempio, si svilupparono insegnamenti religiosi che sanzionavano la violenza contro le donne e i bambini, nonché tradizioni educative che prevedevano di fasciare i neonati in rigide bende, inizialmente forse per evitare che cadessero dai cavalli o dai cammelli durante le migrazioni forzate, ma che divenne una pratica consueta per migliaia di anni anche tra popolazioni sedentarie, ancora in auge nel Medioevo e oltre in altre zone d'Europa. Insomma, quel che a quanto pare accadde in migliaia di anni caotici, a cominciare dalla nostra preistoria, è quella che assai probabilmente De Meo chiama la istituzionalizzazione del trauma, non soltanto mediante la sistematica crudeltà nei confronti di donne e bambini, ma anche con la guerra e il governo dispotico dell'uomo forte. Ancora una volta non si vuole affermare che ciò doveva accadere, ma è quanto rileviamo dalle testimonianze archeologiche lasciate dalle orde pastoraliste come i Kurg. Ed è anche quanto tuttora in vario grado vediamo in società che sono oggi caratterizzate da uno stato di guerra cronico, da un rigido predominio maschile e dal governo dell'uomo forte sia in famiglia sia nello Stato o nelle tribù. A tutt'oggi, infatti, come scrive De Meo, le culture tribali con modelli di comportamento e istituzioni sociali che tendono a subordinare la femmina, a infliggere sofferenze, traumi ai neonati e ai bambini, a punire i giovani se esprimono la loro sessualità e a limitare altrimenti le libertà dei giovani e delle femmine più anziane, assoggettandoli alla ferrea volontà dei maschi, mostrano anche alti livelli di violenza adulta e istituzioni volte a esprimere l'aggressività distruttiva, quali la regalità di origine divina, l'uccisione rituale della vedova, Sati, il sacrificio umano e le torture più sadiche. Per giunta, nelle culture che sono costantemente belligeranti, si considera normale una sessualità che tende a confondere la sofferenza con il piacere e addirittura la si idealizza. È proprio l'istituzionalizzazione del trauma o del dolore e della sofferenza e della violenza e del predominio nei rapporti tra genitori e figli, padroni e schiavi, governanti e sudditi, nazioni e nazioni, uomini e donne, che è stata in gradi diversi il nostro retaggio culturale. Istituzionalmente si riflette in quelle che oggi vengono sempre più riconosciute come famiglie disfunzionali basate sul controllo, nei modelli profondamente radicati di violenza contro le donne e i bambini e nello stato cronico di guerra. Politicamente si riflette nei dispotici controlli tribali e statali, che come vedremo nella parte seconda, tipicamente variano secondo il grado di predominio maschile e secondo la rigidità degli stereotipi di genere. Culturalmente si riflette nei miti sopravvissuti che idealizzano la violenza e il predominio maschili e assimilano la vera virilità alla soppressione non soltanto degli esseri inferiori, ma anche dei sentimenti inferiori, cioè i caratteristici sentimenti femminili della cura, compassione ed empatia. E sessualmente, come esamineremo a fondo nella parte seconda, si riflette nell'equivalenza tuttora diffusa tra piacere sessuale e atti di dominio e di crudeltà. La cosa che rincuora e fa sperare, come pure vedremo nella parte seconda, è che oggi milioni di donne e di uomini di tutto il mondo stanno cercando di affrancarsi da questo penoso retaggio. Ma nel prossimo capitolo continueremo la nostra esplorazione della storia psicosessuale dell'Occidente, guardando in modo nuovo la sessualità e la spiritualità delle società che ancora oggi ci vengono presentate come le più antiche civiltà occidentali, sumerica, babilonese, palestinese, greca e romana. Capitolo 6. Il regno del fallo. Guerra, economia, morale e sesso. L'Iliade di Omero è, ci insegnano, il primo grande poema epico della letteratura europea, l'apprezzatissimo repertorio di quanto è nobile e prezioso nella nostra eredità occidentale. L'azione si svolge parecchie migliaia di anni dopo le prime incursioni indoeuropee in Europa, durante l'invasione achea della città di Troia in Asia Minore. Ma anche l'Iliade parla delle gesta e dei saccheggi di guerra, e come tra i Kurg, i saccheggi comprendono donne e bambini. In effetti, l'Iliade inizia con la fatale contesa tra l'eroe greco Achille e il re Agamennone per una di queste prede, avendo dovuto rinunciare a Criseide. Toltagli da Apollo, Agamennone prende per sé Briseide, che invece Achille irosamente rivendica come proprio bottino di guerra. Urla all'Atride, ed oggi tu ne disprezzi, ingrato, e ne calpesti, e a me medesimo di rapir minacci, dei miei sudori bellicosi il frutto, l'unico premio che l'Acheo mi diede. Interviene allora il vecchio Nestore, pacere inascoltato. Inclito Artride, deh, non volerse ben sì grande a questi tor la fanciulla, ma che ei s'abbia in pace, da Greci il dato guiderdon consenti. Achille dovrà comunque cedere di fronte ad Agamennone il re in conformità alle gerarchie della dominanza. Nel racconto omerico, l'unica questione importante in questa famosa storia di eroismi guerresco maschile è se il premio di guerra spetta giustamente a un re o a un eroe. Mai durante la lettura dell'Iliade, né in genere nelle lezioni di letteratura greca, si solleva la questione della legittimità di trasformare una fanciulla in oggetto di proprietà, di schiavitù sessuale femminile. Neanche le varie divinità femminili che figurano nell'Iliade come Era e Atena si preoccupano di tali questioni, perché, come il potente Zeus medesimo, sono del tutto assorbite dalle dispute tra uomini. Zeus, la più temuta delle divinità dell'Olimpo, è ovviamente un famoso violentatore e rapitore di donne. La dea Era, in alcune leggende ancora conosciuta come madre degli dei, cui donò l'ambrosia della vita eterna, è stata ridotta al rango inferiore di moglie. Ha ancora voce in capitolo, ma come leggiamo nell'Iliade, ha paura di disobbedire al marito, temendo di essere picchiata. Quanto ad Atena, alla quale peraltro sono ancora associati attributi e simboli della dea arcaica, come la saggezza e il serpente, simbolo dell'oracolo profetico, la sua preoccupazione principale è l'esito della guerra. Come Ishtar, la divinità semitica e la dea del sole, Arina, in Anatolia, è diventata dea della guerra. Un tratto, come scrive lo storico delle religioni James, assolutamente assente in epoche più antiche. Per la verità, ad Atena è talmente indifferente il fatto delle donne da diventare colei che in una delle più famose tragedie greche, l'Orestiade, dà il voto decisivo per assolvere un figlio dal matricidio e lo fa secondo l'assurda pretesa che soltanto i padri sono imparentati con i figli, come lei, secondo il mito greco, nata dalla testa del padre Zeus. Donne, sesso e democrazia ateniese. Come descrive la storica delle culture inglese Joan Rockwell, se il matricidio non è un delitto blasfemo perché non esiste rapporto matrilineare, quale migliore argomento a favore della discendenza unicamente patrilineare? E ovviamente, se persino una potente divinità femminile come Atena non punisce il delitto premeditato a sangue freddo di una donna per mano del figlio, donne e uomini non vedranno alcunché di sbagliato in altri atti di violenza maschile contro le donne. Nelle donne si aspetteranno protezione legale per percosse, stupri, morte persino, ovviamente ben meritati. Pertanto, e ciò non sorprende affatto, esaminando le leggi dell'antica Atene, vediamo che da esse le donne non potevano aspettarsi troppa protezione. È persino dubbio che la tanto menzionata legge a favore delle donne, istituita da Solone, il famoso padre della democrazia ateniese, che stabiliva il diritto all'eredità della proprietà paterna da parte delle figlie che non avevano fratelli, offrisse davvero una buona protezione alle donne. Infatti, le eredi, come tutte le donne ateniesi, erano costrette a sottomettersi alla tutela legale degli uomini, che detenevano un effettivo controllo sulle loro persone e le loro proprietà, tanto che le donne, ereditiere comprese, non potevano, secondo la legge ateniese, disporre di proprietà alcuna superiore al valore minimo di un medimmo, ovvero uno staio di orzo. Per giunta, fu lo stesso Solone a istituire il famigerato statuto, in base al quale un padre poteva vendere come schiava la figlia se questa perdeva la verginità prima del matrimonio. In realtà, come mette in rilievo la storica Eva Kells, non c'era molta differenza tra le donne e gli schiavi nella società ateniese nel tanto celebrato periodo classico, e ciò si riflette nel termine legale usato per definire la moglie, damar, che deriva dalla radice che significa soggiogare o addomesticare. Come riferisce Kells, come una schiava, la donna non aveva virtualmente alcuna protezione dalla legge, se non nella misura in cui era proprietà di un uomo. Per la legge in realtà non era una persona. Nel periodo in esame il dominio del maschio sulla femmina era totale come quello del padrone sullo schiavo. Il libro innovativo di Eva Kells, The Reign of the Phallus, Sexual Politics in Ancient Athens, Il regno della fallocrazia, sferra un attacco frontale contro l'idealizzazione dell'antica Atene, elaborata da molti altri classicisti, i quali tendono a giustificare, ovvero a ignorare, la situazione delle donne come degli schiavi in questa culla della democrazia occidentale. Eva Kells trae pesanti conclusioni dalle osservazioni delle migliaia di immagini dipinte su vasi greci, sparsi in innumerevoli musei d'Europa e degli Stati Uniti, che mostrano scene della vita quotidiana ad Atene e dall'analisi di leggi, discorsi e altri documenti della vita del tempo. Di conseguenza, riesce a darci non un ennesimo panegirico dell'Atene classica, ma un quadro ben più realistico, che tra l'altro dice parecchio sul modo in cui gli ateniesi consideravano e praticavano il sesso. In particolare, Kells documenta il nesso tra severa regolamentazione della sessualità femminile e quello che chiama fallicismo, ovvero, citando le sue stesse parole, una combinazione di supremazia maschile e di culto del potere della violenza. E mostra ripetutamente il rapporto esistente tra repressione delle donne, espansionismo militare e durezza e brutalità della vita per la maggior parte della popolazione dell'antica Atene. Nel contempo riconosce l'ammirabile eredità artistica e filosofica lasciata da questa straordinaria cultura, affermando pure che sotterranee correnti di protesta furono sempre presenti e culminarono nel 415 a.C. in quello che definisce un aperto movimento antifallico in cui si combinavano antimilitarismo e femminismo. In breve, Kells ci offre un quadro molto più completo dell'antica Atene, un quadro che comprende entrambi gli aspetti che la caratterizzano, la dominanza insieme con la partnership. La cerniera tra queste due facce della società ateniese è oggetto di un esame abbastanza approfondito nel Calice e la Spada, in relazione all'eredità scientifica, artistica e politica che abbiamo ricevuto dall'antica Grecia. Qui ci concentreremo sulla sessualità, in particolare sul modo in cui, come vividamente documenta Coels, la costruzione sociale del sesso nella società ateniese si connette all'imposizione e al mantenimento degli aspetti della dominanza. Come altri classicisti, Coels osserva che nelle dimore ateniesi le donne erano segregate in speciali quartieri, ma a differenza di molti altri studiosi, sottolinea che questa usanza era volta a limitare severamente la libertà di movimento delle donne e a facilitare quindi una severa sorveglianza della loro attività, e in particolare nelle loro attività sessuali. Coels dimostra anche, prove alla mano, che in Atene esisteva una polizia ufficiale, la gynaikonomoi, che aveva il compito, come scrive Aristotele, di limitare i movimenti delle donne onde proteggerne la castità. Acclude la relazione di uno scrittore del tempo, Eschine, il quale, in lode della castità imposta, riferisce di un padre ateniese che, scoprendo che la figlia era stata corrotta, l'aveva murata viva in una casa abbandonata. Presenta inoltre un'ampia documentazione che dimostra che, per quanto miserabile fosse la situazione delle donne rispettabili nella società ateniese, la situazione di altre donne, prostitute e schiave, era infinitamente peggiore. Molti scrittori non si soffermano sul fatto assai sgradevole che Atene era una società schiavista, e persino quando ne parlano cercano talvolta di mitigarlo, insinuando che gli ateniesi trattavano gli schiavi insolitamente bene. Il libro di Eva Coels smentisce tali affermazioni, acclude la relazione di Demostene a dimostrazione del fatto che gli ateniesi avevano predisposto una pubblica camera di tortura, nella quale venivano normalmente torturati gli schiavi durante i procedimenti legali, in quanto la testimonianza di uno schiavo era ammessa in tribunale solamente se resa sotto tortura. Porta altre prove per dimostrare che, come scrive, la schiavitù in Atene era meno mite che in molte altre società antiche. Porta esempio l'uso di un oggetto che impediva la deglutizione, una sorta di collare di legno che serrava le mascelle, imposto agli schiavi che maneggiavano il cibo per impedir loro di mangiarselo. E a più riprese, Coels sottolinea come l'apparente consueta brutalità degli ateniesi, che comprendeva la pubblica crocifissione e altri mezzi, per imprimere traumaticamente nella testa della popolazione quanto era importante obbedire all'autorità, fosse probabilmente accusata in modo particolarmente crudele dalle donne. Le ateniesi più impotenti erano le donne che erano anche schiave. A quanto risulta, molte bambine venivano vendute come schiave, ovvero diventavano schiave quando venivano salvate dal mucchio di letame su cui le abbandonavano i genitori subito dopo la nascita, perché morissero di fame o di freddo, secondo la pratica a quanto pare diffusa di esporre le neonate. Spesso le giovani schiave venivano usate come prostitute ed erano, come scrive Coels, automaticamente soggette agli incommensurabili orrori di quell'istituzione, che prevedeva violenza da parte dei padroni, torture, esecuzioni casuali e vendita in qualsiasi momento al miglior offerente. E tutte le schiave, usate o no dai proprietari per produrre reddito attraverso la prostituzione, erano ovviamente nel sesso e per molti altri versi alla mercé dei padroni. Persino le prostitute, che non erano schiave, erano tenute sotto stretto controllo. Come scrive Aristotele, il controllo dei prezzi nella prostituzione era un'importante istituzione ateniese. Delle leggi stabilivano perfino: le giovani suonatrici di flauto, arpe, eccetera, non chiedevano più di 2 dracme per i loro servigi. In altre parole, le entrate che le donne potevano procurarsi da sole grazie a una delle pochissime professioni, in certe situazioni addirittura l'unica, allora aperte, dovevano essere severamente limitate. Ad assicurare il totale controllo degli uomini sulla sessualità femminile erano previste elaborate leggi contro l'adulterio, che comportavano gravi rappresaglie. Le ex mogli adultere diventavano a quanto pare potenziali vittime di qualsiasi maltrattamento, tanto da sfiorare la morte. Per esempio, se venivano scoperte mentre partecipavano a rituali pubblici, chiunque era autorizzato a strappar loro le vesti di dosso e a prenderle a calci. Inoltre, i mariti delle adultere non soltanto avevano diritto al divorzio, che lasciava le donne in miseria, poiché, come afferma uno scrittore, venivano scacciate di casa nude, ma era addirittura illegale per gli uomini restare sposati a una donna che aveva commesso adulterio. A deprivare ulteriormente le donne di qualsiasi potere autonomo in Atene, esisteva anche la pratica di escludere le donne non soltanto dal pubblico ufficio e dal voto, ma anche dall'istruzione laica. Ovviamente serviva a evitare che le donne riuscissero a cambiare la loro situazione di subordinazione e isolamento. Ma aveva anche un altro effetto collaterale. Come osservano molti scrittori che si occupano di quell'epoca, le rendeva compagne inadatte agli uomini istruiti. Si aggiunga a ciò la credenza, reiterata da Aristotele, che per loro natura le donne sono inferiori e quindi naturalmente destinate come gli schiavi a essere governate dagli uomini. Per non parlare delle leggi e delle usanze che ne imponevano la subordinazione. E non sorprende affatto che gli uomini dell'Atene classica notoriamente disprezzassero le donne. Di conseguenza, e nemmeno ciò sorprende, i più celebrati rapporti amorosi nell'antica Atene non erano tra donne e uomini, ma tra uomini e uomini, o per meglio dire, tra uomini e ragazzi. Omosessualità, eterosessualità e libero amore. Al giorno d'oggi si sente parlare spesso della libera pratica dell'omosessualità tra gli ateniesi, ma tuttora viene ignorato, o vi si accenna solo di sfuggita, il fatto ben documentato che il sesso tra adulti maschi alla pari non era socialmente approvato. In tal modo la società ateniese cercava di far sì che tutte le relazioni sessuali dei maschi, omosessuali oppure eterosessuali, si conformassero al modello della dominanza. In altri termini, che rispondessero all'esigenza di un sesso inteso non come atto di dare e ricevere piacere tra uguali, ma come atto di dominazione e sottomissione. Questo punto è di estrema importanza. Se gli unici rapporti omosessuali accettabili erano tra uomini, adulti e ragazzi, l'omosessualità ateniese non era una deviazione dalla norma della dominanza. In effetti era un ennesimo modo di rafforzare questo modello di rapporti sociali e sessuali, poiché i ragazzi fondamentalmente svolgevano il ruolo dipendente normalmente assegnato alle donne. Come scrive il classicista Dower, nessun greco, dicendo di essere innamorato, se ne sarebbe avuto a male se gli interlocutori avessero dato per scontato che era innamorato di un ragazzo e desiderava più di qualsiasi altra cosa eiaculare nel o sul corpo del medesimo. Inoltre, se si veniva a sapere che aveva raggiunto lo scopo, poteva aspettarsi invidia e ammirazione. Per contro, il ragazzo poteva aspettarsi una decisa riprovazione se si immaginava che in qualche modo avesse preso l'iniziativa per attrarre un amante, in quanto ci si aspetta da lui che assumesse il ruolo stereotipato di passività e sottomissione, tipicamente femminile. Fatto ancora più rivelatore, se si presumeva che a svolgere quel ruolo fosse un uomo adulto, allora poteva aspettarsi non soltanto la censura ed eventualmente un processo, ma anche di essere trattato al pari delle donne con il massimo disprezzo. Chiaramente, la tanto discussa liberalità di Atene nei confronti dell'omosessualità non era dopo tutto così liberale. Infatti, serviva anch'essa a mantenere l'associazione tra sesso e predominio. Per giunta, permettendo addirittura idealizzando la pederastia, autorizzava le molestie sessuali degli uomini sui ragazzi, proprio come la legge, e gli usi sanzionavano la violenza sessuale perpetuata sulle ragazze con matrimoni precoci, prostituzione infantile e l'uso e l'abuso sessuale delle giovanissime schiave a opera dei loro padroni, talvolta con le più grandi crudeltà. Ma forse l'equivalenza tra sessualità, brutalità e predominio maschili non è mai così evidente come nei numerosi racconti mitici e artistici e nella raffigurazione ateniesi dello stupro. Come scrive Coels, lo stupro è l'ultimo atto del fallicismo all'opera. Lo stupro si commette non per piacere o per la procreazione, ma per mettere in atto il principio della dominazione mediante il sesso. Non c'è dunque da meravigliarsi, conclude, se gli ateniesi ne erano ossessionati. Peraltro, talvolta tale ossessione è trattata in modi assai bizzarri. Per esempio, in un libro intitolato L'amore degli dèi nell'arte attica del V secolo, che elenca non meno di 395 stupri, compresi quelli perpetrati dalle principali divinità dell'Olimpo, l'autore, come unica spiegazione per questa esplosione di violenza sessuale sul Monte Olimpo, osserva Coels, informa il lettore che tutti questi racconti di stupri sono una sottile espressione dello struggimento degli ateniesi per il divino. Ovviamente Non era soltanto sull'Olimpo che la violenza sessuale era lo sport greco più amato. Sui vasi ateniesi o attici decorati vediamo scene di satiri che danno la caccia alle menadi e le molestano. E troviamo anche scene che mostrano uomini nell'atto di malmenare le etere, prostitute, mentre cacciano il pene nella loro bocca e le penetrano analmente. Un atto che nell'antica Atene, come sottolinea Kearns, era considerato umiliante per il ricevente. Molte di queste scene erano dipinte su uno speciale tipo di coppa, il kilix, che rientrava nel normale corredo necessario per i famosi simposi. Oggi il termine simposio sta ad indicare un convegno di studiosi, ma tradotto alla lettera significa il bere insieme. Queste riunioni sociali si tenevano nei quartieri degli uomini o androni, che comprendevano le stanze più spaziose e lussuose. E come scrive Kearns, erano un miscuglio di parecchie cose. Si banchettava, si beveva, ci si dedicava a giochi di ogni tipo, si discuteva di filosofia, si faceva del sesso in pubblico con prostitute, concubine e altri uomini, ma mai con le mogli legittime. Ancora una volta si è fatto un gran parlare del libero amore ad Atene, della frequenza delle relazioni prematrimoniali ed extraconiugali in questa società pagana. In realtà questo libero amore era tale soltanto per gli uomini e probabilmente soprattutto per gli uomini liberi, i non schiavi. Perché, come abbiamo visto, la sessualità femminile era severamente repressa e tenuta sotto controllo, mentre le prostitute, spesso schiave, erano costrette a concedersi a vari uomini, le ateniesi rispettabili dovevano limitarsi a un solo uomo. Spesso venivano maritate ancora bambine e, come mette in rilievo Kearns, ampie testimonianze dimostrano che la prima notte di nozze, quando si consumava il rapporto sessuale con il marito, tipicamente molto più in là negli anni, era spesso temuta dalle spose ateniesi. Da molte attestazioni si deduce che per molti uomini l'amplesso con la moglie aveva lo scopo primario di ingravidarla per procreare legittimi eredi maschi e non tendeva al piacere sessuale o all'amore erotico. Se non sempre le cose andavano così, altre attestazioni indicavano che quando gli ateniesi avevano rapporti sessuali con donne invece che con ragazzi per puro piacere, allo scopo sceglievano schiave e prostitute invece che le mogli, escluse non soltanto dalla vita politica ma anche dalla vita sociale. Le prostitute che gli uomini accoglievano nei loro simposi erano probabilmente quelle che i greci chiamavano etere, donne dai ruoli molteplici, di musicanti, di intrattenitrici e di oggetti sessuali per gli uomini. Talvolta queste etere erano donne particolarmente intelligenti e dotate e partecipavano alle discussioni intellettuali da cui moglie e figlie erano escluse. Capitava che un uomo si innamorasse di un'etera, con lei vivesse more uxorio e a giudicare da alcune pitture vascolari e da un certo numero di scritti letterari e aneddotici greci, avesse con lei rapporti affettuosi e amorevoli. Ma, come osserva Kearns, per crudele ironia, questa relazione, quella che forse più si avvicinava a un rapporto basato sull'armonia e sull'affetto reciproco, era anche quella in cui il potere dell'uomo sulla donna era più assoluto. Con l'eccezione di poche donne particolarmente fortunate, ispiratrici delle storie di cortigiane privilegiate, persino ricche, per la maggior parte le etere erano poco più che serve e in particolare molte erano schiave. Come tutte le ateniesi, non avevano status sociale senza un guardiano maschio, ma a differenza delle rispettabili matrone, che potevano reclamare almeno una certa sicurezza dopo aver dato al marito un figlio maschio, le etere, come scrive Kearns, erano quasi certe di finire i loro giorni in miseria. Come schiettamente si esprime un antico greco, noi, ateniesi, prendiamo le etere per il piacere, le concubine per la cura quotidiana del nostro corpo e le mogli per mettere al mondo figli legittimi e sorvegliare la nostra casa. E questa visione delle donne, arrivate sulla terra solamente per l'uso e l'abuso dei maschi, era simboleggiata, come osserva Kearns, dall'ossessione degli ateniesi per il pene, quale simbolo del potere e dell'autorità del maschio.